Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, vi ricordate come nacque la grande crisi finanziaria che ha scosso l'Occidente? Tutto cominciò il 15 settembre 2008 negli Stati Uniti, quando fallì una banca, la banca Lehman Brothers, uno dei nomi più illustri della finanza americana, che crollò in poche ore. La banca Lehman Brothers era l'erede di un'attività commerciale che era stata fondata ancora nel 1847 e che aveva assunto il nome di Lehman Brothers nel 1850. Poi quell'istituzione diventò un autentico bastione del capitalismo americano e una delle banche d'affari più potenti, che finanziò molte delle attività che cambiarono molto agli Stati Uniti e a tutto il mondo, dalle ferrovie alle telecomunicazioni, dalle automobili al cinema. Ecco, la ricostruzione del ciclo vitale di Lehman Brothers è contenuta in un'opera teatrale di Stefano Massini, che si intitola appunto Lehman Trilogy, è pubblicato da Einaudi, 332 pagine, 17,50 €. Si tratta di un'opera teatrale sui generis, non ci sono parti, ma una lunga continua narrazione, quasi in versi liberi. Perciò nella prefazione Luca Ronconi parla di natura dichiaratamente ibrida dell'opera. È un'opera quindi unica e singolare, che ripercorre 170 anni di capitalismo americano, gettando la luce sul carattere, la volontà, l'intuizione di alcuni fra i protagonisti dell'economia e della finanza americana. I Lehman erano arrivati in tre dalla Germania. Prima Harry, sbarcato dalla nave Burgundy l'11 settembre del 1844, figlio di un mercante di bestiame di religione ebraica, e della religione ebraica troviamo molte tracce, molte radici, soprattutto nei primi protagonisti. E poi gli altri fratelli, Emmanuel, chiamato tre anni successivi, e Mayer, il più piccolo, giovanissimo, soprannominato Patata. Il primo, Harry, che morirà molto giovane, sarebbe stato la testa, il secondo il braccio e il terzo Patata, scrive l'autore, quello che ci vuole tra la testa il braccio, perché il braccio non spacchi la testa e la testa non umili il braccio. E di questi tre e di altro parliamo adesso con l'autore. Buonasera a Stefano Massini. Buonasera a voi. Stefano Massini, parliamo innanzitutto del genere di questo libro, una nuova forma di drammaturgia, una drammaturgia che Ronconi nella sua prefazione definisce pericolosa. Che cosa c'è di pericoloso in questa sua forma di drammaturgia? Temo che Ronconi, quando parla di drammaturgia pericolosa, indichi una drammaturgia che non è riconducibile probabilmente a quello che nell'immaginario comune è la drammaturgia. Cioè non è un testo scritto con battute, è più che altro, io amo dire, un materiale scenico, cioè è un insieme di suggestioni dentro il quale chi decide di mettere in scena l'opera deve operare delle scelte, ecco. Ecco, la storia della famiglia Lehman nel suo libro assume quasi il carattere di una saga, di un ciclo omerico. Qual è il filo conduttore, se ce n'è uno, di questa saga? E si può trovare una logica da questa storia, una costante nello sviluppo del capitalismo americano? Beh, è una bella domanda. Io credo che fondamentalmente dietro questa epopea, no, di tre fratelli tedeschi immigrati che vivono negli Stati Uniti verso la metà del XIX secolo e fondano un negozio di stoffe, dal quale nell'arco di tutto sommato pochi anni, perché il percorso fondamentalmente si compie in 30 anni, nasce una banca, ed è già interessante vedere come un percorso di stoffe possa nascere genialmente una banca. Io credo che l'insegnamento possa essere che in qualche modo si è passati da un'idea di banca per le cose, cioè la banca serviva per acquistare beni concreti, materiali. Chi leggerà il libro troverà che ci sono varie epoche, c'è l'epoca del cotone, c'è l'epoca del caffè, l'epoca del petrolio, l'epoca del treno e via dicendo. Bene, si è passati da un'economia, da un'idea di banca per le cose, a una banca come moltiplicatrice di denaro, staccato in qualche modo dall'evidenza delle cose da acquistare, quindi il denaro che deve procurare e creare altro denaro. Ecco, più che la banca, diciamo, irrompe una nuova concezione della finanza, soprattutto quando nasce la borsa e l'attenzione dei Lehman per la borsa, soprattutto quella, esatto, di Phillips Lehman. Ecco, sentiamo questo brano in cui avviene la scoperta dello strumento della borsa da parte dei due vecchi fratelli. Perché ora, in questa città condannata a parlare, hanno perfino aperto un posto tutto nuovo, gigantesco. Sta in Wall Street e si chiama Borsa, Borsa degli Scambi. Idea geniale, ha detto Emmanuel. Idea newyorkese, ha pensato Mayer. Invece di contrattare il ferro alla borsa del ferro, la stoffa alla borsa delle stoffe, il carbone alla borsa del carbone, hanno fatto una borsa unica, immensa, grandissima, newyorkese, una sinagoga con soffitti alti più che una sinagoga, dove in centinaia, folle, eserciti, da mattina a sera, ininterrottamente, parlano, dicono, trattano, gridano. Da mattina a sera, ininterrottamente, parlano, dicono, trattano, gridano. Da mattina a sera, ininterrottamente, parlano, dicono, trattano, gridano. Da mattina a sera, ininterrottamente. Perché la cosa eccezionale, almeno così è sembrata a Mayer, è che là dentro, in Wall Street, da mattina a sera, ininterrottamente, vendono ogni cosa. Ferro, stoffe, olio, carbone e ogni razza di cosa che tu possa immaginare, lì è in vendita. Ecco, questo strumento finanziario però non convince tutti i fratelli Lehman, mi pare che c'è un po' di diffidenza, viene fuori quasi uno scontro tra quella che avremmo poi chiamato l'economia reale e la finanza. Sì, sì, è proprio così, nel senso che fondamentalmente io racconto la storia della banca attraverso tre generazioni. La prima è quella dei tre fratelli, Henry, Emmanuel e Mayer. I due che avete sentito nominare nel pezzo che è stato recitato sono Emmanuel e Mayer, cioè i due fratelli minori, perché Henry morirà in realtà poco dall'arrivo negli Stati Uniti. E da loro lo scettro passa alla generazione dei figli, in particolar modo il figlio di Emmanuel, che è Lehman. E a sua volta poi dal figlio di Emmanuel, cioè Philip, passerà al figlio di Philip, vale a dire Bobby. Ecco, sono queste generazioni che sostanzialmente vedono mutare con una rapidità sconcertante quella che potremmo definire con un moderno la mission della banca. Nasce con un criterio ben preciso, molto pratico, molto concreto, e lentamente, ma anche velocemente tutto sommato, assume dei criteri e dei profili completamente diversi. Si passa, come dicevamo prima, a quella che potremmo definire una finanza più creativa, in che modo, staccandosi piano piano dal collegamento con gli oggetti e con le cose da comprare. C'è un punto del mio testo nel quale i due vecchi fondatori della banca vengono portati dai figli in una grande valle deserta, completamente deserta, dove non c'è niente, e vengono portati lì per vedere dove un giorno, grazie ai loro investimenti, nascerà la ferrovia. Però quella ferrovia non esiste, non c'è niente. E ciò che loro dovranno finanziare non è l'acquisto delle viti, delle longarine o del carbone, ma dovranno finanziare semplicemente un nuovo meccanismo di obbligazioni che servirà a raccogliere i soldi e a fare fundraising, appunto, per costruire le future ferrovie. Quindi ci si allontana sempre di più, diciamo, dalla cosa concreta, avvicinandosi sempre di più agli strumenti finanziari, che a volte diventano fine a se stessi. Nel suo dramma, possiamo chiamarlo così, ricorre un parallelo, quello con la figura di un equilibrista, Solomon Paprinsky, anche la copertina del libro in qualche misura riprende questa immagine. Ecco, che cosa significa questo parallelismo? Che il capitalismo è solo equilibrismo? No, non significa questo. Io ho scelto la metafora dell'equilibrista in realtà per una ragione molto squisitamente pratica. E questa ragione è ho deciso di... Io ero partito con l'idea di scrivere un testo sul fallimento di Lehman Brothers. In realtà poi, mentre studiavo, mi sono reso conto che più che il fallimento mi interessava raccontare che cosa era fallito, cioè la storia di una banca che più conosci e più ti rendi conto che ha avuto un fallimento incredibile, perché è stato tutto sommato un qualcosa di estremamente veloce, repentino. Lehman Brothers è caduta tutto sommato in pochi giorni, sotto un certo punto di vista, Ed è incredibile pensare che questo colosso che ha fatto la storia non soltanto dell'economia ma anche della vita di ciascuno di noi, perché chi leggerà il libro troverà quante cose insospettabili sono state inserite nelle vite di ciascuno di noi e nei ricordi di ognuno di noi grazie a Lehman Brothers. Cito uno fra tutti perché è particolarmente emblematico, il caso del cinema. Lehman ha finanziato film come King Kong, come Via col Vento, carriere degli attori come Marlon Brando, quindi ha avuto un ruolo determinante anche nella costruzione degli usi e costumi dell'epoca moderna. Bene, quando mi sono reso conto che mi interessava raccontare la storia di ciò che era fallito più che il momento in cui qualcosa di cui non specificavo cosa fosse falliva, ho capito che la cosa che più di tutte mi sarebbe interessata era creare un parallelismo che io personalmente noto fra la crisi del 29 e la crisi dei mutui subprime, cioè la crisi creato in qualche modo la caduta di Lehman nel 2008. Ecco perché in qualche modo ho insistito molto sulla metafora di questo equilibrista che dopo anni di onesto mestiere, tendendo un filo per strada come un giocatore di strada, come un artista di strada in Wall Street, cade, per l'appunto perde l'equilibrio per la prima volta proprio all'alba, diciamo, del cosiddetto martedì nero. La metà dell'equilibrismo mi interessa in questo senso. Il suo libro poi si conclude con uno scontro finale, una partita ping pong figurata tra Glucksmann e Peterson, i due ultimi capi della Lehman che non sono più appartenenti alla famiglia. Che cosa rappresenta? I ultimi capi in realtà, perché prima l'ultimo reale è stato Dick Fuld, che comunque nel testo compare. Io sì. Ho scelto di puntare su Glucksmann e su Peterson con questa partita ping pong di cui parlavate perché mi è sembrato particolarmente degno di entrare in questa epica, in questa epopea che ho scritto, il fatto che Lehman Brothers, fondata da tre immigrati ebrei tedeschi a metà 800, venisse rilevata quando per la prima volta un erede Lehman muore senza figli, o perlomeno senza eredi, non senza figli, senza eredi alla banca, come nel caso di Bobby Lehman nel 69, ebbene la banca viene rilevata, guarda caso, da altri due immigrati europei in America, cioè da Glucksmann, ungherese, e da Peterson, il cui vero nome era Petropoulos, greco. Quindi è, diciamo, anche in questo senso è una grande epopea, perché è la storia anche degli Stati Uniti come luogo dell'ermità e dove tutto l'Occidente in qualche modo si è ritrovato, no, ad avere un ruolo. E ho trovato particolarmente interessante quindi che questa storia sia una storia profondamente intrisa di America, ma anche di non soltanto America, perché in realtà c'è dentro la Germania, c'è dentro l'ebraismo yiddish, c'è dentro, come ho appena detto, addirittura l'Ungheria e la Grecia, quindi c'è un po' anche l'Europa dentro. Grazie a Stefano Massini, autore di Lehman Trilogy. Buona serata. A voi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Abbiamo appena parlato di tre emigranti che fecero fortuna, i fratelli Lehman. E allora parliamo adesso della nuova emigrazione dei giovani italiani che vanno a fare fortuna all'estero. Ce ne danno l'opportunità due libri che si rivolgono a due mete geografiche diverse. La prima è la Germania. Il libro è quello di Leopoldo Innocenti, che è un giornalista di stanza a Berlino, O Fiders in Italia, In fuga verso il futuro, è pubblicato da Armando, 142 pagine, 12 euro. Berlino, ci ricorda Innocenti, esercita ancora un grande fascino sui giovani italiani e non soltanto. Innocenti ne ha incontrato molti per farsi raccontare le loro storie. C'è la ragazza pugliese che ha voluto superare l'angoscia dell'eterna ricerca del posto fisso per andare poi a insegnare italiano e a fare teatro nella capitale tedesca. C'è la sociologa romana con un lungo curriculum di studi che ha trovato la sua strada appunto in Germania lavorando sulla rete. E c'è il medico calabrese che da Oxford si trasferisce a Berlino senza conoscere una sola parola di tedesco, e tante altre storie. Innocenti ce le racconta e ci presenta brevemente la condizione dello straniero in Germania, dove la vita è certamente più facile e la burocrazia sicuramente meno oppressiva. I rapporti tra tedeschi e italiani non sono sempre facilissimi, ma, dice Innocenti, qualche cosa sta cambiando. Sentiamolo in queste righe. Thank you. Forse qualcosa sta lentamente cambiando. Forse quei rocciosi luoghi comuni che vedevano il tedesco in ciabatte e calzini corti e l'italiano col mandolino stanno iniziando a scricchiolare. La sensazione di essere prima di tutto europei sta crescendo e, assieme ad altri fattori, fa sì che la velocità con cui le persone si mescolano tra i paesi si alzi di anno in anno. Lo Spiegel, settimanale tedesco molto seguito, ha pubblicato poco tempo fa un interessante articolo sull'argomento, dove veniva descritta una Germania dall'attitudine amichevole verso l'immigrazione. Quella che un tempo era una Germania chiusa, che tentava di dissuadere altri popoli a stabilirsi sul suo territorio, adesso sta cercando invece di incentivare questo movimento, puntando sull'utilità dei nuovi arrivati e al contempo sulla loro caratura. A sostegno di tutto questo, il settimanale tedesco aveva messo in copertina un'eloquente foto dei nuovi colti emigranti. Forse a noi fa un po' sorridere immaginarsi la rigida Germania amichevole e a braccia aperte. Tuttavia, la proverbiale determinatezza teutonica nel raggiungere obiettivi forse ci farà capire tra non molto che i nostri luoghi comuni sono diventati obsoleti. L'altra meta invece è Londra, e qui si parla dunque degli italiani a Londra. Nel libro di Caterina Soffici, anche la giornalista e scrittrice, Italia yes, Italia no, che cosa capisci del nostro paese quando vai a vivere a Londra, pubblicato da Feltrinelli, 142 pagine, 14 euro. Qui il taglio è diverso, non vengono raccontate delle storie di italiane che si trovano a Londra, ma la storia di una giovane famiglia che si è trasferita nella capitale inglese, dove, scrive la Soffici, si vive peggio ma si sta meglio. E il libro vuole appunto spiegare questo apparente controsenso. Perché si va via? Non c'è soltanto il bisogno, ci spiega l'autrice. Chi lascia l'Italia lo fa perché non ne può più. La qualità della vita, il cibo, il sole, il mare non ce la fanno più a compensare quello che ti tocca ingoiare tutti i giorni in Italia. E in Gran Bretagna sembra tutto diverso, dalla partecipazione politica alla scuola, dove l'autrice si avventura invano per trovare una buona scuola pubblica, scoprendo che la meritocrazia funziona per censo, queste le sue parole. E allora sarebbe meglio l'Italia? Neanche per sogno, ci scrive l'autrice, perché le scuole saranno classiste, però, aggiunge, anche il migliore dei laureati in Italia si scontrerà con la dura realtà fatta di corporazioni, clientele, cricche di potere, amicizia. Nessuno è giudicato per quello che vale, per quello che ha fatto e per quello che potrà fare, ma per la sua appartenenza, le conoscenze e le affiliazioni. La scuola, anche la migliore, non è il fattore determinante, a differenza di quanto succede appunto in Gran Bretagna. E poi si parla di costi, di sobrietà della politica, di trasparenza, di tolleranza, di sessismo e di costume, e naturalmente di code, con qualche manifestazione di ottusità che si evidenziano anche in quel paese. Insomma, conclude l'autrice, tasse, burocrazia, licenze, permessi, certificati, tutto è più semplice a Londra. Si apre una società in 2 giorni, per farmi autenticare una firma non ho dovuto andare da un notaio o in un ufficio del comune, basta un testimone, firmi il modulo davanti a lui che aggiunge i suoi estremi e garantisce per te. Scherzosamente consiglio ai nostri giovani che vanno all'estero, ma anche ai molti stranieri che sono in Italia, il libro di un sociologo americano che ha raccolto 2 saggi sull'esilio, come recita il sottotitolo del libro, che si intitola Lo straniero. L'autore è Richard Sennett, pubblicato da Feltrinelli, 110 pagine, 15 euro, ed è tradotto da Fiorenza Conte. Lo straniero è il secondo saggio qui pubblicato, e in questi saggi, scrive l'autore, si parla di che cosa significa essere uno straniero, e lo fa Sennett parlando di 2 esperienze. La prima è quella degli ebrei di Venezia, per i quali la Repubblica aveva inventato il ghetto, un quartiere isolato nel quale di notte si dovevano rifugiare senza poter uscire tutti gli ebrei. E come mai, si chiede Sennett, gli ebrei accettarono quella condizione? Sostanzialmente per uno scambio: reclusione notturna in cambio di tutela dalle persecuzioni che non potevano avere luogo contro gli ebrei se se questi fossero rimasti nel quartiere a loro assegnato. E infatti, scrive Sennett, gli ebrei della Venezia del Rinascimento furono i primi a considerare, per quanto possa sembrare paradossale, la loro segregazione una condizione che conteneva questo valore positivo, quello della protezione. Ed è affascinante qui la ricostruzione delle origini del ghetto, la differenza col ghetto di Roma e soprattutto con il ghetto che Venezia non riuscì a imporre alle prostitute. Si parla in questo saggio naturalmente del Mercante di Venezia di Shakespeare, che agli occhi dello studioso appare come la testimonianza della forza del contratto della legge a Venezia. Infatti Sennett scrive che il contratto appare come una forza in grado di generare da sé i propri diritti, le proprie rivendicazioni e i propri privilegi. Nell'altro saggio invece si parla di Manet, di Edipo e soprattutto di Alexander Herzen, il fuoriuscito russo che a metà 800 vagò tra Roma, Parigi e Londra, e nella sua esperienza di protosocialista gli immigrati rappresentavano una risorsa perché, scrive Sennett, secondo Herzen, proprio la loro condizione di sradicati li aveva dotati dell'esperienza, o almeno della possibilità, di guardare oltre se stessi, di coinvolgere in maniera collaborativa altri sradicati come loro. Insomma, nasceva una sorta di spirito di classe. E di qua una lezione per il presente che Sennett così riassume. La patria non è un luogo fisico, ma un bisogno che si sposta. Ovunque si sia, la patria è sempre da ritrovare da qualche altra parte. Mentre la vita di Herzen pian piano si realizza in Inghilterra, una terra senza sole di persone gentili ma fin troppo pratiche, la patria di cui avverte il bisogno cambierà di paese in paese, da un luogo innevato a uno assolato, dal piccolo villaggio familiare non lontano da Mosca ai languidi caffè di Roma. Herzen avrà sempre una patria, a condizione che riesca a trasformarne l'aspetto. Egli sarebbe pervenuto a questa paradossale e sottilmente amara consapevolezza del proprio bisogno di patria ormai anziano, e ciò lo portò a riconoscere che non si sarebbe mai sentito un uomo completo. Però alla fine accettò questo stato di non sufficienza. Dura per sempre, la cicatrice non si sana, e lo sviluppo di questa capacità di spostare la patria finì per essere ciò che augurava avvenisse per tutti gli altri che non avevano fatto le valigie quando i confini si erano aperti nel marzo del 1848, per coloro che non erano ritornati all'amato mondo della loro infanzia, della loro lingua, del loro suolo. Del ghetto, e non soltanto, si parla nel secondo volume della monumentale storia sugli ebrei italiani che sta pubblicando con Mondadori Riccardo Calimani. Questo ultimo volume uscito abbraccia il periodo dal XVI al XVIII secolo, 598 pagine, 28 euro. Il titolo è appunto Storia degli ebrei italiani. Troviamo qui un'analisi stato per stato della presenza dell'organizzazione degli ebrei in un periodo decisivo, un capitolo in particolare dedicato proprio al ghetto di Venezia, di cui abbiamo parlato, che offre anche l'occasione per approfondire il ruolo svolto dagli ebrei a Venezia nell'affermazione dei nuovi strumenti finanziari. In particolare Calimani ricorda che pur nella condizione di segregati e separati, gli ebrei godevano di diritti codificati e riconosciuti ed è un'autonomia talvolta invidiabile, superiore a quella di molta parte della popolazione veneziana. In effetti, aggiunge, Venezia aveva uno spasmodico bisogno del contributo dei suoi forestieri. Sulla condizione ben diversa degli immigrati clandestini che sbarcano in Italia vi segnalo il libro di Davide Cammarrone, giornalista Rai e scrittore, Lampaduzza, pubblicato da Sellerio, 148 pagine, 12 euro. Lampaduzza è il nome che ha dato all'isola, a Lampedusa, Domenico Chirico, un altro giornalista che ha ripreso il modo in cui appunto gli arabi chiamano Lampedusa. Si tratta di un reportage sull'isola, la cui storia è stata segnata dall'illusione del benessere dopo la fama ottenuta in tutto il mondo dopo i due missili che le erano stati lanciati contro da Gheddafi nell'86, e poi naturalmente segnata dalle ondate migratorie, dalle polemiche che hanno accompagnato gli interventi legislativi e i fatti di cronaca più drammatici che purtroppo hanno caratterizzato quell'isola. E a questo punto Il confettino. Vi segnalo di Aaron Appelfeld, il grande scrittore ebreo che riuscì a sfuggire da ragazzo da un lager, una bambina da un altro mondo, è pubblicato da Guanda, 158 pagine, 13,50 euro, tradotto da Elena Löwenthal e illustrato da Vali Minzi. È la storia di una ragazza misteriosa che accompagna due bambini nel bosco dove si trovano in fuga dopo un rastrellamento contro gli ebrei. Prima di salutarci vi ricordo che l'8 maggio si inaugura a Torino la 27esima edizione del Salone del Libro, che avrà luogo fino al 12 maggio. Quest'anno il tema conduttore del salone è il bene. La madrina è Susanna Tamaro, che tiene giovedì 8 la prolusione della scrittrice. Vi ricordo che Bompiani ha pubblicato Illims e Meditazioni sulla passione. Ospite d'onore dell'edizione del 2014 del Salone del Libro è la Santa Sede. Troverete 53 nuovi espositori e poi accanto al salone vero e proprio il salone off con 350 eventi sparsi in 150 luoghi diversi nella città. E a questo punto ringrazio Guido Scotti redazione, Roberto Scaltritti regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento alla settimana prossima.